Capitolo 9. Il vedovo e la vedova. Mrs. Kirkpatrick fu semplicemente troppo felice di accettare l'invito di Lady Kemnor. Era ciò che aveva sperato, ma non aveva osato augurarsi, perché credeva che la famiglia sarebbe rimasta a Londra ancora per un po'. Le torri erano un luogo gradevole e lussuoso in cui trascorrere le vacanze, e anche se lei non era tipo da fare progetti dettagliati o da programmare a lungo termine, era ben consapevole del prestigio che il fatto di poter dire di aver soggiornato con la cara Lady Kemnor alle torri avrebbe conferito a lei e alla sua scuola agli occhi di parecchia gente. Perciò si preparò con gioia a raggiungere sua signoria il giorno 17. Il suo guardaroba non richiedeva grandi sistemazioni. Se così fosse stato, la povera donna non avrebbe avuto molto denaro da destinare allo scopo. Era leggiadra e aggraziata, e questo contribuisce in larga misura a cavarsela anche nonostante gli abiti dimessi. Ed era di suo gusto, piuttosto che il segno di un sentimento particolarmente profondo, continuare a indossare quelle tinte delicate, i grigi e i violetti, che con la dovuta aggiunta del nero sono proprie del mezzo lutto. Era tenuta a indossare un simile tipo d'abiti in memoria di Mr. Kirkpatrick. In realtà era una scelta sia signorile che economica. I suoi bei capelli erano di quel ricco castano dorato che non diventa quasi mai grigio, e un po' per la consapevolezza della loro bellezza o un po' perché lavare le cuffiette è dispendioso, ella non portava alcun copricapo. La sua carnagione vantava il colore brillante che spesso si accompagna a capelli che un tempo sono stati rossi, e la sola offesa che la sua pelle aveva accusato con il passare degli anni era la sua sfumatura più accesa che delicata, e variava di meno con il sopraggiungere di un'emozione. Non era più in grado di arrossire, e a 18 anni era stata tanto fiera dei propri rossori. Gli occhi erano dolci, grandi, azzurri come la porcellana. Non erano particolarmente espressivi o ombreggiati, il che era probabilmente dovuto al colore chiarissimo delle ciglia. La figura era un po' più piena che in passato, ma i suoi movimenti erano morbidi e sinuosi come sempre. In generale, ella appariva più giovane della sua età, che si avvicinava ai 40. Aveva una voce molto piacevole e leggeva con perizia e chiarezza, cosa gradita a Lady Kemnor. In verità, per qualche strana ragione, la donna era la favorita di sua signoria più che degli altri membri della famiglia, per quanto essi la approvassero in una certa misura e trovassero tollerabilmente utile avere in casa qualcuno che conoscesse così bene i loro modi e le loro abitudini. Pronta a parlare quando si richiedesse un po' di conversazione, disposta ad ascoltare e anche con una discreta capacità di comprensione, se gli argomenti trattati non erano letteratura seria, scienza, politica o economia sociale. In merito a romanzi, poesie, viaggi e pettegolezzi, dettagli privati o aneddoti di ogni genere, ella esprimeva sempre le osservazioni che ci si aspetta di ricevere da parte di un ascoltatore gradito. E quando si parlava di questioni più astruse, ella era dotata di sufficiente buon senso, da limitarsi a quelle brevi esternazioni di meraviglia, ammirazione o stupore che possono significare qualsiasi cosa. Era proprio un piacevole cambiamento, per la povera direttrice di una scuola fallimentare, lasciare la propria abitazione, colma di mobili rovinati e logori. 2 o 3 anni prima aveva preso in carico l'istituto ed anche il mobilio di chi l'aveva preceduta. Dall'aspetto deprimente e dai dintorni squallidi, come accade spesso alle strade secondarie di una città di provincia, e attraversare Towers Park nell'opulenta carrozza che era stata mandata a prenderla. Discendervi e sapere con certezza che i servitori ben addestrati si sarebbero occupati delle sue borse e anche dell'ombrello, del parasole e del mantello, senza che fosse lei a doversi caricare di tutti quegli oggetti, come aveva dovuto fare la mattina, seguendo la carriola che conteneva i suoi bagagli in direzione della stazione di posta di Ashcombe. Percorrere la folta moquette delle ampie e basse scalinate, fino a raggiungere la stanza di Milady, deliziosamente linda e fresca, persino in quella giornata afosa, e profumata grazie a capaci ciotole di rose di ogni colore appena recise. Sul tavolo c'erano due o tre romanzi ancora intatti, i quotidiani del giorno, le riviste. Ogni sedia era una poltroncina di genere differente, ma tutte erano rivestite di chintz francese che richiamava i fiori veri del giardino sottostante. La stanza che si definiva sua, in cui fu accompagnata dalla cameriera di Lady Kemnor, le era familiare. La sentiva più casa propria rispetto alla lugubre dimora che aveva lasciato quella mattina. Le veniva così spontaneo apprezzare le squisite tappezzerie, i colori armoniosi, i lini preziosi e i morbidi tessuti. Si accomodò nella poltrona accanto al letto e meditò sulle proprie sorti in questo modo. Si potrebbe pensare che sia una cosa semplice decorare uno specchio come quello con la mussolina e i nastri rosa, eppure com'è complicato tenerlo bene. Non si sa quanto sia difficile finché non si sia tentato come ho fatto io. Ho reso il mio specchio altrettanto bello quando sono andata ad abitare ad Ashcombe, ma la mussolina si è sporcata, i nastri rosa sono sbiaditi ed è così arduo guadagnare abbastanza denaro da rinnovarli e quando si hanno i soldi non si ha cuore di spenderli tutti in una volta. Si pensa e si ripensa a come fare per investirli nel modo migliore. Un vestito nuovo, una giornata di piacere, della frutta di serra o qualcosina di elegante da esibire in salotto. Hanno la meglio. E addio gli specchi decorati. Ora, qui il denaro è come l'aria che respirano. Nessuno chiede mai o sa quanto costi la biancheria o quanto venga il nastro rosa alla yarda. Sarebbe diverso se avessero dovuto sudarsi ogni penny come faccio io. Dovrebbero fare conti come me per trarne il maggior godimento. Mi domando se andrò avanti tutta la vita a sfacchinare per i soldi. Non è normale. Il matrimonio è normale. Allora è il marito a dover far tutto il lavoro sporco e sua moglie siede in salotto come una gran signora. Era così quando era vivo il povero Kirkpatrick. Perbacco. È una brutta cosa essere vedova. Poi c'era il contrasto delle cene che doveva condividere con le allieve ad Ashcombe. Girelli di manzo, cosce di montone, grandi vassoi di patate e budini di pane, con i leggeri pasti delle cornie preparati in modo squisito, servite alle torri ogni giorno al conte e alla contessa, e anche a lei su antiche porcellane Chelsea. Temeva la fine delle vacanze come una qualunque delle sue allieve più legate alla famiglia, ma in quel momento alla fine era lontana di qualche settimana, perciò Claire distolse lo sguardo dal futuro e tentò di godersi in pieno il presente. Un disturbo di quel placido e gradevole corso di giorni d'estate intervenne con una indisposizione di Lady Kemnor. Il marito era tornato a Londra e lei e Mrs. Kirkpatrick erano state lasciate al tenore di vita molto tranquillo che in quel periodo si accordava ai desideri di Milady. Nonostante il suo languore e il suo affaticamento, ella aveva affrontato in tutta dignità la giornata dedicata alle visitatrici della scuola, dando precise disposizioni su cosa si dovesse fare, quali passeggiate intraprendere, quali serre visitare e a che ora la compagnia dovesse rientrare per la merenda. Lei rimase in casa, insieme a un paio di donne, che avevano osato pensare che la fatica e il caldo fossero eccessivi per loro e che avevano dunque declinato l'invito a seguire sia il gruppo guidato da Mrs. Kirkpatrick, sia quelle poche favorite signore a cui Lady Kemnor stava illustrando i nuovi edifici della fattoria. Con somma affabilità, come in seguito avrebbero sottolineato le sue ascoltatrici, Lady Kemnor raccontò loro delle case delle figlie sposate, le stanze dei bambini, i progetti per l'educazione dei figli e il modo di trascorrere le giornate. Ma quello sforzo non la esaurì e quando tutti se ne furono andati, è probabile che lei si sarebbe ritirata a riposare se suo marito non avesse fatto, per via del suo cuore gentile, una sfortunata osservazione. Le si avvicinò e le mise una mano sulla spalla dicendo: «Temo siate molto affaticata, signora mia». Lei tese i muscoli e si alzò, replicando freddamente: «Quando sarò stanca, Lord Kemnor ve lo dirò». Il suo affaticamento si manifestò durante il resto della serata, nello star seduta particolarmente eretta, declinare l'offerta di poltrone o sgabelli per posare i piedi, rifiutare l'offensivo suggerimento di andare tutti a letto presto. Continuò con simili atteggiamenti finché Lord Camnor restò alle torri. Mrs. Kirkpatrick ne era totalmente ingannata e non faceva che assicurare a Lord Camnor di non avere mai visto la cara Lady Camnor con un aspetto migliore, così forte, così sano. Lui però aveva un cuore sensibile, a dispetto di una mente pasticciona, e anche se non sapeva addurre una ragione alle proprie convinzioni, era sicurissimo che la moglie non stesse bene. Aveva però troppa paura di lei per mandare a chiamare Mr. Gibson senza il suo consenso. Le sue ultime parole a Claire furono: «Per me è un tale conforto sapervi qui con Milady, però non lasciatevi ingannare dai suoi modi. Non dimostrerà di star male fin quando non vi sarà costretta. Consultatevi con Bradley, assistente personale di Lady Camnor, che detestava la frivolezza del termine cameriera. E se fossi in voi, manderei a chiedere a Gibson di passare. Potete inventarvi una scusa qualsiasi». A quel punto gli tornò in mente l'idea che aveva avuto a Londra a proposito dei due, cosicché non poté fare a meno di aggiungere: «Fate che venga a trovarvi, è un uomo molto gradevole. Lord Hollingford dice che da queste parti non ha eguali e mentre parla con voi potrebbe vedere Milady e controllare se si è ammalata. Fatemi sapere cosa ne dice». Claire però aveva paura quanto Lord Camnor di eseguire per Lady Camnor compiti che quest'ultima non aveva espressamente ordinato. Sapeva di rischiare di cadere in disgrazia se avesse mandato a chiamare Mr. Gibson senza autorizzazione e di non essere mai più invitata a stare alle torri. E la vita lì, per quanto a qualcuno fosse potuta sembrare monotona, nella sua tranquillità spesa nel lusso le andava proprio a genio. La donna tentò a sua volta di scaricare su Bradley la responsabilità che Lord Camnor aveva trasferito su di lei. «Mrs. Bradley», le disse un giorno, «voi siete del tutto pacifica in merito alla salute di Milady? Lord Camnor pensava che sembrasse esaurita e malata». «A dire la verità, Mrs. Kirkpatrick, penso che Milady non sia in sé. Non riesco a convincermene, ma anche se mi chiedeste il perché, fino a stasera non saprei dirvelo». «Non credete che potreste fare un salto a Hollingford a trovare Mr. Gibson e chiedergli di passare di qua uno di questi giorni a far visita a Lady Camnor?» «Ne va del mio posto, Mrs. Kirkpatrick. Fino al giorno in cui Milady morirà e la provvidenza la manterrà lucida, le cose saranno fatte come vuole lei o non saranno fatte per niente. Solo Lady Harriet può gestirla e non sempre». «Bene, allora, dobbiamo sperare che non ci sia niente che non vada. E direi che non c'è. Lei dice che non c'è e dovrebbe conoscersi». Un paio di giorni dopo questa conversazione, Lady Camnor fece trasalire Mrs. Kirkpatrick dicendole all'improvviso: «Claire, voglio che scrivate un biglietto a Mr. Gibson dicendogli che desidero vederlo questo pomeriggio. Pensavo che sarebbe passato spontaneamente prima di adesso. Avrebbe dovuto, per porgere i suoi rispetti. Mr. Gibson era stato troppo impegnato con il suo lavoro per avere occasione di porgere visite di cortesia, per quanto sapesse bene di stare trascurando ciò che ci si aspettava da lui. Ma il distretto sul quale aveva, diciamo, giurisdizione medica era stato diffusamente colpito da una brutta sorta di febbriciattola che gli occupava il tempo e i pensieri, e spesso lo faceva sentir grato che Molly fosse lontana, al quieto riparo di Hamley. Le sue ferite domestiche non erano guarite, anche se per il momento era costretto a mettere da parte quelle perplessità. L'ultima botta, il colpo di grazia, era stata una visita improvvisa di Lord Hollingford, che egli aveva incontrato una mattina in città. Avevano avuto molto da raccontarsi a proposito di una certa scoperta scientifica, dei cui dettagli Lord Hollingford era ben informato, mentre Mr. Gibson li ignorava e ne era molto interessato. Alla fine Lord Hollingford aveva detto improvvisamente: «Gibson, mi chiedo se non potreste offrirmi il pranzo. È un bel po' che sono in giro. Ho fatto colazione alle 7 e sto morendo di fame». Ora, Mr. Gibson era fin troppo lieto di dimostrare ospitalità a un uomo che gradiva e rispettava così tanto come Lord Hollingford e lo portò volentieri a casa a partecipare al pranzo della famiglia. Ma era proprio il periodo in cui la cuoca era di malumore per il licenziamento di Betia, così sceglieva di essere poco puntuale e sciatta. Non esisteva ancora una sostituta di Betia che attendesse ai pasti, perciò, sebbene Mr. Gibson sapesse che pane e formaggio, carne fredda o i cibi più semplici possibili sarebbero stati graditi all'affamato Lord, non riuscì a ottenere nessuna di queste cose, né per quello spuntino né per il pranzo della famiglia, all'orario opportuno, nonostante il suo scampanellio e la rabbia misurata che si limitava a dimostrare per paura di far sentire Lord Hollingford a disagio. Alla fine il pasto fu pronto. Ma il povero padrone di casa notò una mancanza di cura, quasi una mancanza di igiene nel servizio. Piatti sporchi, bicchieri opachi, una tovaglia che, se non proprio sudicia, era tutto fuorché linda nelle sue macchioline e nelle sue grinze. E nella sua mente egli paragonò il tutto alla sopraffina eleganza con cui persino una fetta di pane nero veniva servita a casa del suo ospite. Non fece direttamente le proprie scuse, ma dopo pranzo, nel momento in cui si stavano salutando, disse: "Vedete, un uomo come me, un vedovo, con una figlia che non può essere costantemente presente, non ha sempre a disposizione la casa ben governata che mi metterebbe nelle condizioni di dare ordini nelle brevi porzioni di tempo che trascorro qui." Non fece alcuna allusione al pasto sconfortante cui entrambi avevano partecipato, anche se ce l'aveva bene in mente. Ed era così anche per Lord Hollingford, che replicò: "Vero, vero, però un uomo come voi dovrebbe liberarsi da qualsiasi preoccupazione domestica. Dovete avere qualcuno. Quanti anni ha, Miss Gibson?" 17. È un'età molto particolare per una ragazza orfana di madre." "Sì, davvero. Io ho solo figli maschi, ma con una femmina deve essere proprio difficile. Scusatemi, Gibson, ma stiamo parlando d'amici. Non avete mai pensato di risposarvi? Ovvio che non sarebbe come un primo matrimonio, ma se trovaste una donna intelligente e piacevole sulla Trentina, penso davvero che non potreste fare di meglio che portarla qui a governare la vostra casa e risparmiarvi così disagi e preoccupazioni. Inoltre, sarebbe in grado di offrire a vostra figlia quel tipo di dolce supervisione che immagino tutte le ragazze della sua età richiedono. È un argomento delicato, ma mi scuserete per aver parlato con franchezza." Mr. Gibson aveva ripensato a questo consiglio diverse volte da quando era stato pronunciato, ma era un caso di non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Dov'era la donna intelligente e piacevole sulla Trentina? Non Miss Browning, né Miss Phoebe, né Miss Goodenough. Tra i suoi pazienti in campagna c'erano due classi decisamente distinte: i contadini, la cui prole era maleducata e incolta, e i nobili uomini, le cui figlie avrebbero effettivamente pensato che il mondo stava cambiando molto in fretta se avessero sposato un medico di provincia. Ma il primo giorno in cui andò a far visita a Lady Cumnor, Mr. Gibson iniziò a ritenere possibile che Mrs. Kirkpatrick fosse il suo proverbiale gatto. Lasciò le torri pigramente, ripensando a ciò che sapeva di lei, più che alle prescrizioni da scrivere o al modo in cui stava cavalcando. La ricordava come una Miss Clare molto carina, l'istitutrice che aveva avuto la scarlattina. Era venuto quando era viva sua moglie, tanto tempo fa. Così tanto che egli quasi non riusciva a farsi una ragione dell'aspetto giovanile di Mrs. Kirkpatrick. Poi apprese del suo matrimonio con un curato. Il giorno dopo, o così sembrava, egli non ricordava l'esatta durata dell'intervallo della morte di costui. Sapeva, in qualche modo, che da allora la donna aveva lavorato come istitutrice in diverse famiglie, ma era sempre stata una favorita alle torri. Per quelle persone egli nutriva del tutto indipendentemente dal loro rango un sincero rispetto. Uno o due anni prima Aveva sentito dire che lei aveva assunto la direzione di una scuola ad Ashcombe, una piccola città adiacente a un'altra proprietà di Lord Camnor nella medesima contea. Quella di Ashcombe era una tenuta anche più vasta di quella vicina a Hollingford, ma la vecchia casa padronale laggiù non era una residenza neanche lontanamente paragonabile alle torri. Di conseguenza, essa fu ceduta a Mr. Preston, l'amministratore dei terreni di Ashcombe, ruolo che a Hollingford era ricoperto da Mr. Sheepshanks. In quella dimora, alcune stanze erano riservate per le visite occasionali della famiglia. Nel resto del tempo, Mr. Preston, giovane scapolo di bell'aspetto, poteva tenerla tutta per sé. Mr. Gibson sapeva che Mrs. Kirkpatrick aveva un'unica figlia, che aveva circa la stessa età di Molly. Naturalmente le sue proprietà, se ne possedeva, erano molto limitate, ma lui aveva vissuto con grande parsimonia e aveva investito fruttuosamente qualche migliaio. Per di più, i suoi introiti professionali erano buoni e di anno in anno tendevano ad aumentare piuttosto che a diminuire. Nel momento in cui il dottore giunse a questo punto delle sue considerazioni, era arrivato alla casa del suo prossimo paziente. Così mise da parte per il momento ogni pensiero che riguardasse il matrimonio e Mrs. Kirkpatrick. Ancora una volta nel corso della giornata, egli ricordò con un certo piacere che Molly gli aveva raccontato alcuni semplici dettagli connessi alla sua disgraziata prigionia alle torri 5 o 6 anni prima, e questi gli avevano dato l'impressione a quel tempo che Mrs. Kirkpatrick si fosse comportata con molta gentilezza nei confronti della sua piccolina. La questione per il momento e per quanto lo concerneva si fermò lì. Lady Kemenor non stava bene, ma non era così malata come aveva immaginato di essere in tutto il periodo in cui le persone che la circondavano non avevano avuto il coraggio di chiamare il medico. Era di grande sollievo per lei che fosse Mr. Gibson a decidere cosa doveva fare, cosa mangiare, bere, evitare. Queste risoluzioni ab extra sono talvolta un vero conforto per coloro che sono abituati a deliberare, non solo per se stessi, ma anche per tutti gli altri. E di quando in quando l'allentarsi della tensione che una natura infallibile porta con sé costituisce un grande ristoro per la sua salute. Mrs. Kirkpatrick pensava nel profondo del cuore di non avere mai trovato così facile andare d'accordo con Lady Kemnor. E lei e Bradley non la smettevano mai di cantare le lodi di Mr. Gibson, che era sempre tanto bravo con Milady. Il bollettino fu doverosamente fatto giungere a Milord, ma sia a lui che alle figlie fu severamente proibito fare ritorno. Lady Kemnor aveva voglia di essere debole e illanguidita, e incerta sia nel corpo che nella mente, lontana dagli sguardi dei suoi familiari. Era una condizione così diversa da quella in cui si era sempre ritrovata che ella temeva inconsapevolmente di perdere prestigio se si fosse fatta vedere così. A volte scriveva personalmente i resoconti quotidiani, altrimenti chiedeva a Claire di occuparsene, ma voleva sempre vedere le lettere. Qualsiasi risposta ricevesse dalle figlie la leggeva per conto proprio, solo occasionalmente condividendo parte del loro contenuto con la buona Claire. Tutti però potevano leggere le lettere di Milord. Non c'era grande timore di far trapelare segreti di famiglie da quelle righe estese affettuose. A un certo momento, però, Mrs. Kirkpatrick si imbatté in una frase di una lettera di Lord Kemnor, che stava leggendo ad alta voce per Milady, che attirò il suo sguardo prima di arrivarci, e se avesse potuto saltarla per una considerazione privata, l'avrebbe fatto volentieri. A Milady era troppo vispa per lei. Secondo lei, Claire era una buona creatura, ma non intelligente. E la verità era che ella non era sempre molto ingegnosa nell'escogitare espedienti, per quanto poi se ne servisse senza farsi scrupolo alcuno. Andate avanti, perché vi siete fermata? Non ci sono cattive notizie su Agnes, vero? Datemi la lettera. Lady Kemnor lesse a mezza voce. Come va tra Claire e Gibson? Avete disprezzato il mio consiglio a dare una mano in quella faccenda, ma penso veramente che un po' di tempo speso a combinare matrimoni sarebbe un divertimento molto piacevole per voi, che ora siete chiusi in casa, e non posso immaginare un'unione più adatta. Rise che Lady Kemnor. È imbarazzante che vi sia caduto sotto gli occhi, Claire. Non mi meraviglio che vi siate interrotta, però mi avete fatto venire uno spavento. Lord Kemnor ama molto scherzare, commentò Mrs. Kirkpatrick, un poco agitata, eppure consapevole della verità delle ultime parole di Milord. Non posso immaginare un'unione più adatta. Si chiese cosa ne pensasse Lady Kemnor. Lord Kemnor scriveva come se ci fosse davvero una possibilità. Non era un'idea spiacevole. Le fece spuntare un debole sorriso sul volto, mentre sedeva accanto a Milady che faceva il suo sonnellino pomeridiano. Capitolo 10. Una crisi. Mrs. Kirkpatrick aveva continuato a leggere a voce alta finché Lady Kemnor non si era addormentata. E ora il libro era posato sul suo ginocchio e solo la sua presa impediva che cadesse. Stava guardando fuori dalla finestra, senza vedere negli alberi del parco né i profili delle colline più lontane. Pensava invece a come sarebbe stato bello avere di nuovo un marito, qualcuno che lavorasse mentre lei sedeva comoda ed elegante in un salotto ben arredato, e questa immaginaria figura di uomo che guadagnava il pane stava rapidamente assumendo i tratti e le forme del medico di campagna, quando si sentì bussare dolcemente alla porta. E quasi prima che lei potesse alzarsi, l'oggetto delle sue meditazioni fece il suo ingresso. La donna si sentì arrossire e non se ne dispiacque. Si fece avanti per accoglierlo, facendo un gesto verso Milady che stava dormendo. Molto bene, commentò lui a bassa voce, gettando uno sguardo professionale alla sagoma addormentata. Posso parlarvi un momento in biblioteca? Sta per dichiararsi? Pensò lei, con un'improvvisa palpitazione, la convinzione di voler accettare senza alcun dubbio un uomo che un'ora prima aveva semplicemente considerato come uno della categoria degli scapoli con cui un matrimonio sarebbe stato possibile. Egli intendeva porre solo un paio di domande di tipo medico. La donna lo scoprì subito e trovò il dialogo piuttosto piatto, anche se per il dottore poteva risultare utile. Non si rese conto che lui si era finalmente deciso a fare la proposta mentre lei parlava, mentre rispondeva alle sue domande con tante parole. Ma lui era abituato a separare il grano dalla pula e la voce della donna era così dolce e il suo accento così piacevole da colpirlo positivamente, dopo l'ampia parlata di campagna che egli sentiva continuamente. E poi i colori armoniosi del suo abito e i suoi movimenti lenti, aggraziati, esercitavano sui suoi nervi quasi l'effetto distensivo che hanno su alcune persone le fusa di un gatto. Egli iniziò a pensare che sarebbe stato fortunato a conquistarla e che per lui sarebbe stato un bene. Il giorno prima avrebbe considerato la donna soprattutto come una possibile matrigna per Molly. Oggi pensava lei più come una moglie per se stesso. Il ricordo della lettera di Lord Kemnor dava alla signora una consapevolezza che le si addiceva molto. Ella desiderava essere attraente e sperava di riuscirci. Eppure i due parlarono per un po' solo della salute della contessa. Dopodiché capitò un provvidenziale acquazzone. Mister Gibson non si preoccupava affatto della pioggia, ma in quel momento quello fu un ottimo pretesto per trattenersi. Davvero un bel temporale, osservò. Eh già, mia figlia mi scrive che la scorsa settimana il postale non è potuto salpare da Boulogne per 2 giorni. La signorina Kirkpatrick si trova a Boulogne, vero? Sì, poveretta, frequenta lì la scuola e tenta di perfezionare il suo francese. Ma, Mr. Gibson, voi non la dovete chiamare signorina Kirkpatrick. Cinzia vi ricorda con tanto affetto, posso dirlo. È stata una vostra piccola paziente quando aveva gli orecchioni qui 4 anni fa, sapete? Vi prego, chiamatela Cinzia. Le dispiacerebbe molto sentire da voi un nome così formale come signorina Kirkpatrick. Cinzia mi sembra un nome così desueto, adatto solo alla poesia e non all'uso quotidiano. È il mio nome, disse Mrs. Kirkpatrick con l'agnoso tono di rimprovero. Sono stata battezzata Hyacinth e il suo povero papà ha voluto darle il mio nome. mi addolora che non vi piaccia. Mr. Gibson non sapeva cosa dire. Non era proprio preparato a gettarsi a capofitto in uno stile intimo, personale. Mentre esitava, ella continuò. Hyacinth Clare. Un tempo ne ero proprio orgogliosa e anche altre persone lo ritenevano un bel nome. Non ho dubbi, cominciò Mr. Gibson e poi si bloccò. Forse ho sbagliato ad acconsentire al desiderio di darle un nome così romantico. Potrebbe suscitare dei pregiudizi nei suoi confronti. In certe persone, poveretta, ne avrà abbastanza di battaglie. Una figlia giovane è un bell'impegno, Mr. Gibson, specialmente quando c'è un solo genitore che si occupi di lei. Avete proprio ragione, replicò lui, ridestandosi al ricordo di Molly. Anche se avrei pensato che una ragazza così fortunata da avere la mamma non dovesse soffrire così tanto per la perdita del genitore come un'orfana di madre. State pensando a vostra figlia. È stato imprudente da parte mia parlare così. Cara bambina, ricordo bene il suo visino dolce addormentato sul mio letto. Immagino che sia quasi adulta ormai. Deve avere circa l'età della mia Cinzia. Come mi piacerebbe incontrarla! Spero che lo farete. Vorrei che la vedeste. Vorrei che amaste la mia piccola Molly. Che l'amaste come se fosse vostra. Egli inghiottì qualcosa che gli era salito in gola e stava quasi per soffocarlo. Sta per dichiararsi? Sul serio? Pensava lei e iniziò a tremare nella tensione che precedette le successive parole dell'uomo. Potreste amarla come se fosse vostra figlia? Vorreste provare? Volete concedermi il diritto di presentarvi a lei come la sua futura mamma, come mia moglie? Ecco, l'aveva detto. Che fosse saggio o sciocco, l'aveva detto. Ma fu conscio della questione della loro saggezza nell'istante stesso in cui le parole furono pronunciate e non potevano più essere ritrattate. Ella nascose il viso fra le mani.